Dottor Bonanno, può venire? Porca miseria, si è andato male? No. Tutto a posto, no? Per bene. Possiamo incominciare? Signor Presidente, deve dire qualcosa? No, una breve piccola nota iniziale di natura metodologica per evitare che facciamo confusioni. Se mi consente vorrei rileggere tre righe della mia dichiarazione della volta scorsa del 30 di novembre, che voglio ribadire in questa sede, ed è questa: sono disponibile, dicevo, a rispondere a domande eventualmente relative a queste dichiarazioni che riguardano, a dichiarazioni che riguardano le mie idee e i fatti della mia vita. Non sono invece disponibile a rispondere a domande che riguardano fatti di altre persone, idee di altre persone, anche qualora queste persone fossero miei coimputati. Lo dico per evitare che tutto si ripeta. Ad esempio, possiamo peraltro impedire al pubblico ministero o a qualche avvocato di porre delle domande e lei appunto risponderà su questo punto. Sa perché mi permetto di fare questa obiezione iniziale? Per evitare che magari tutto l'interrogatorio si trasformi in un voglio rispondere, e dando l'impressione di una... invece, se mi consente un piccolo esempio, io a pagina 55 della annotazione dei carabinieri viene fatto un elenco di persone che si afferma io conosca. Ad esempio un certo Martino, un certo Di Fazio, un certo Ricci. Io queste persone non le ho mai viste, quindi non le conosco. Ma se mi si... Scusi, no, un attimo, sia gentile. Mi permetto di intervenire. Se mi si dovesse chiedere, io sono costretto per un motivo di principio a dire che non voglio rispondere. Ho capito. Però veda, molte domande. Lei pensa che tutte le domande siano fatte contro di lei e contro gli imputati? No, anche che fossero a favore. Ci sono mio. Delle domande che in realtà sono a favore, non tanto della sua persona, ma di altre persone che sono qui imputate. Veda, se questa domanda verrà fatta dal Presidente, non è detto che questa domanda sia con un taglio accusatorio, ma potrebbe essere una domanda fatta per verificare la verità in relazione a posizioni singole. E in quel caso, se mi è consentito, sempre in nome di questo principio a cui io non voglio derogare, vuol dire che correrò il rischio di assumermi la responsabilità di non fare questo favore al mio coimputato. Allora, adesso la parola la diamo al pubblico ministero, mi sembra. Vuoi sì, Presidente, io innanzitutto intendo ringraziare, anche se ha voluto fare questa precisazione, Bonanno, per essersi sottoposto a questo esame, a questo interrogatorio, che costituisce naturalmente uno strumento di difesa e permette però anche all'accusa, perché lui in questo momento sta esercitando il suo diritto alla difesa, ma permette anche all'accusa di esercitare il suo diritto all'accusa. E quindi io lo ringrazio, perché già aver accettato questo confronto è già un fatto positivo, e mi augurerei che questo confronto l'accettassero anche quegli imputati di cui lei ha parlato, Bonanno, di cui non vuole assolutamente parlare, e giustamente lei sarebbe opportuno che venisse loro a parlare di sé, se così si può dire. Quindi io la ringrazio innanzitutto per questo, però io devo svolgere il mio lavoro. Lei naturalmente, come ha giustamente precisato il Presidente, ha la facoltà di non rispondere, può rispondere ad alcune domande come non può rispondere ad altre. La prima domanda è una domanda che si riallaccia in un modo, diciamo così, indissolubile a quello che lei ha detto nella scorsa udienza, a quello cioè che lei ha detto finora e che aveva già detto davanti al giudice dell'indagine preliminare, o meglio al giudice dell'udienza preliminare. Perché dopo il rinvio a giudizio c'è stato il processo, questo processo. Beh, all'inizio di questo processo è stato, mentre questo processo in cui c'è lei, è stato letto in quest'aula un documento da parte di due imputati Esattamente, Giuseppe Stasi e Garechin, qui si scrive Grigorian, i quali scrivono: con questo documento scritto noi, Giuseppe Stasi e Garechin Grigorian, revochiamo la nomina degli avvocati parte in causa nel nostro sistema giuridico, perché lo scontro armato è l'unico mezzo che riconosciamo per confrontarci con voi. Noi militanti rivoluzionari, lei ha parlato molto la volta scorsa di militanza rivoluzionaria, anarco-comunisti, rivendichiamo il percorso della liberazione umana, e lei ne ha parlato, che passa attraverso una lunga, sanguinosa serie di rivolte, di insurrezioni, di attacchi violenti contro gli uomini e le strutture dello Stato capitale. E poi continuano con voi servi del padrone, eccetera, eccetera. Documento che lei naturalmente conoscerà, che si conclude con queste esortazioni: ovunque colpire strutture e uomini di organismi di cooperazione militare, imperialistiche e poliziesche, colpire le istituzioni, le strutture, gli uomini dello Stato capitale occidentale che incarnano e promuovono lo sfruttamento dell'economia capitalistica, eccetera, eccetera. La domanda che io le voglio fare, che coinvolge tutto quello che aveva detto lei e soprattutto quello che aveva detto in occasione della sua esame di quel documento Nuove svolte del capitalismo, è questa: una domanda che una circostanza è stata. Lei è stato messo a conoscenza di questo documento da parte di Stasi e di Grigorian Garechin prima che loro lo leggessero in aula? No. Se è stato messo a conoscenza di questo documento, lo ha condiviso? Sì. Quando loro hanno letto questo documento? Io mi trovavo nella gabbia. Ero in gabbia. Significa che parlava anche, significa che per loro parlavano anche per voi e anche per lei? Io credo di no. Se io l'avessi condiviso l'avrei fermato. Lei lo ha letto questo documento? Non l'ho letto, l'ho ascoltato con attenzione. Quindi prima lei non aveva avuto conoscenza di questo documento? No. Si sente? Sì, ha risposto di no, che se avesse avuto conoscenza, se avesse l'avesse condiviso l'avrei fermato. Al contenuto l'avrebbe sottoscritto. E certo. L'ha preso per la prima volta quella mattina quando è stato... Sì, signor. Pronto, si sente. Quando è stato... Scusi, non la sento. Quando è stato eletto questo documento in aula, come ha detto, nella gabbia insieme con loro, adesso si sente. È stato discusso poi questo documento fra voi? No. Non è stato discusso. No, lo sa perché le dico questo? Perché si riaggancia a delle situazioni di fatto. Che guarda caso, Stasi Giuseppe è uno di quelle persone che insieme con lei sono andati a commettere la rapina di Bergamo. No, scusi. E che insieme con lei sono fare la domanda prima. No. Che insieme con lei è stato condannato per quella rapina. Allora, lei... siccome io devo svolgere anche per lei una serie di domande sulla sua conoscenza e sui suoi rapporti con Stasi, è evidente che la prima domanda riguardava appunto questo documento, dopo che lei aveva ormai chiarito di essere stato l'autore di quella rapina insieme con Stasi Giuseppe, per i quali poi voi eravate stati condannati. A me interessano poi i rapporti intercorsi fra lei, Bonanno e Stasi dopo che siete usciti dal carcere, se così posso sapere. Perché mi ritrovo con un suo coimputato nella rapina di Bergamo, negli anni successivi, coimputato in questo processo, legge un documento di questo tipo che riguardano determinate cose che lei ha detto nella scorsa udienza sulla militanza rivoluzionaria, sull'organizzazione informale, come lei l'ha chiamata, anarchica e insurrezionalista, e sulla sua struttura, cioè sui gruppi di affinità, sui nuclei di base e sui coordinamenti. Quindi io proprio su quello che ha detto lei voglio dei chiarimenti, se possibile, avere, per capire chi condivide. Facciamolo parlare. Sì, no, ma Presidente, scusi, andiamo con ordine. Prima nella sua formulazione. Tanto per capire, buon anno, non è tanto per. Sì, lo so. Nella sua formulazione io mi permettevo di interromperlo perché c'era un errore di fatto. Lei parlava di più persone nella rapina di Bergamo, invece non erano più persone, eravamo soltanto due. Vabbè, ma a parte questo che è una questione di dettaglio. Lei mi parla del documento firmato da due miei coimputati. Io non intendo rispondere su questo documento perché è firmato da persone che non sono la mia persona, in base a quello che ho detto prima. Sul contenuto del documento non intendo rispondere perché riguarda teorie sostenute da persone diverse da me. Sulla questione della rapina di Bergamo possiamo parlarne perché ormai è una cosa storicamente accertata. Per quel che riguarda il mio ruolo nella rapina del Bergamo, non per quel che riguarda il ruolo del mio coimputato, cosa è accaduto al mio coimputato della rapina di Bergamo dal giorno che siamo usciti dal carcere fino ad oggi non intendo rispondere perché riguarda un'altra persona diversa da me. Le posso dire cosa è accaduto a me dopo che sono uscito dal carcere di Bergamo? Sì, quando uscì dal carcere? Nel febbraio del 91. Fu arrestato il 2 febbraio dell'89 e uscì il 6 febbraio, mi sembra di ricordare, il 6 febbraio del 91. Sì, e allora? Prego. Sì, lei, dopo che è uscito dal carcere, ha continuato a frequentare Stasi Giuseppe? Non voglio rispondere. No, perché questo riguarda anche lei. No, è la sua, riguarda me e riguarda qualcosa che non sono più io. Io le ripeto, posso rispondere anche con un dettagliato approfondimento cosa ho fatto io, se è questo l'interesse suo, è comune, perché mi consente un'apertura. A me mi ha messo di cattivo umore, se posso farlo, sta piccolo inciso, lo posso per farlo. Quando lei parlava del mio diritto alla difesa e del suo diritto all'accusa. Io pensavo che il compito suo fosse la ricerca della verità, non l'accusa. Però forse mi sbaglio. No, forse mi sbaglio. La dialettica. Sono sinonimi. La dialettica processuale. Sono sinonimi. La dialettica processuale suppone. Sono sinonimi. Contrasti. Questo è un processo accusatorio e io devo. Ho anche il dovere, è vero. Anche il dovere di cercare elementi favorevoli all'imputato. Posso aggiungere una frase, professore, di questi tempi l'espressione ricerca della verità è alquanto sospetta in queste aule. Quindi mi fa piacere che l'abbia detta lei e che non l'abbiamo detta noi o l'ufficio. No, ma io l'ho detta come punto di meraviglia da un incompetente. Voi altri che siete tecnici. Condivido la sua meraviglia, ma a titolo personale. Mi rendo conto ed è agghiacciante che non è questo lo scopo che stiamo cercando qui dentro. Frequentemente, sia gentile, mi ripeto domanda. Io voglio soltanto dei chiarimenti del sì. Ci dica allora cosa ha fatto lei quando è uscito dal 91, se vuole parlare di questo. Sì. Perché il problema, lei si deve rendere conto che lei. Questo, allora, lei deve dirci tutto quello che ha fatto dal 91, che ha rilevanza altro, come ha fatto. Sì, naturalmente la storia della mia vita al 91 oggi non è molto importante, però per quel che. Dal punto di vista del movimento, dal punto di vista politico. Io nel 91 ho incominciato a lavorare, a scrivere un libro che mi ha impegnato circa 4-5 anni, non so se può essere utile parlare di quale libro si tratta. Dica il titolo. Trattato delle inutilità. Trattato? Le inutilità. Il libro di 3 volumi per complessive 1932 pagine ed ha impegnato la quasi totalità del mio tempo, con piccole parentesi, quale ad esempio è stata le conferenze fatte in Grecia nel 93 al Politecnico di Atene e alla Facoltà di Lettere dell'Università di Tessalonica, che guarda caso come argomento avevano la scaletta che è stata da me pubblicata sull'anarchismo con il titolo 9 svolte del capitalismo, di cui parlavamo la volta scorsa nella dichiarazione. Poi successivamente mi sono ritrovato in carcere nel settembre del 96, da cui sono uscito il 31 ottobre del 97 su decisione della Corte di Cassazione, se non sbaglio, e poi mi sono trovato qua a rispondere a queste domande. Questo libro è stato pubblicato? Questo no, è dall'allegatore, in corso di pubblicazione. Editore si chiama? Edizione Anarchismo. Le nostre edizioni, Edizione Anarchismo. Tutti i miei libri sono Edizione Anarchismo. Qualcuno? Beh, qualcuno. Qualcuno prima, qualcuno altro. Qualcuno no, sì, mai grosse case editrici, per carità, perché conosco bene, quindi. E poi? Non saprei. Poi mi sa, non so. Il pubblico mistero deve... Va bene, allora se lei permette, visto che noi abbiamo, diciamo così, un documento acquisito agli atti, cioè una sua agenda che le è stata sequestrata durante una delle perquisizioni che lei ha subito, forse se lei permette io le farò delle domande appunto su questa agenda, che dovrebbe indicare quello che lei ha fatto in un determinato periodo di tempo, perché fra il materiale sequestrato appunto c'è questa agenda del 1995, quindi è successiva al 91 quando lei è uscito dal carcere. A parte gli indirizzi o i numeri di telefono che sono in questa agenda, di cui lei è riferibile a tutti questi imputati di questo processo di cui lei non vuol parlare, lo diamo per scontato perché è scritto di suo pugno nell'agenda, vediamo se lei può rispondere a qualche altra domanda. C'è per esempio una lettera datata il 9/12/1994 che le è stata inviata da Budini Antonio, in cui io le indicherò tante lettere, in cui si chiede continuamente consigli a lei su come comportarsi. Quello che ci interessa avere da te, oltre che sapere se ti piace o no, è un consiglio tecnico su eventuali ritorsioni sbirresche. Poi parla di Horst, che noi abbiamo identificato in Fantazzini, e sicuramente ad Alessandria. Non so se in cella con Franco. Ci ha scritto Marco Kamenisch, altro nostro imputato, condannato già per attentati, ma non ha specificato se riceve settimanale. Mi ha scritto poi Piero Tognoli dicendo che uscirà qualcosa di noi sul prossimo Anares. Siccome questo ultimo nome, Piero, questo ultimo nome, Piero Tognoli, viene anche citato in una sua lettera, che viene indicata qui in notazione, cui lei tanto ha parlato, una lettera di un anno Alfredo a tale Piero, datata a Catania 30/11/1992, con la quale l'estensore esprime la sua soddisfazione per l'invito ricevuto dai compagni greci. Indica a Piero i temi di maggiore interesse che dovrebbe trattare: solidarietà rivoluzionaria verso i compagni criminalizzati dello Stato, dissociazione e amnistia, limiti all'impostazione del modello autoritativo della lotta rivoluzionaria, critica logica quantitativa di lotta sociale, critica dei metodi sindacali e parasindacali, contraddittorietà lotta per la difesa del posto di lavoro, necessità dell'attacco diretto di massa, possibilità di sviluppo degli organismi di massa insurrezionali attraverso la creazione di nuclei autonomi di base non necessariamente legati al mondo del lavoro, possibilità di costruire una rete di organizzazioni insurrezionali di massa a livello internazionale, mezzi e obiettivi. In chiusura della missiva, Bonanno precisa che il loro progetto si inserisce perfettamente in quello mediterraneo. Invita quindi Piero ad accelerare i tempi di realizzazione. Ci vuole parlare di questo progetto mediterraneo e ci vuole dire se vuole, se questo Piero si identifica in Piero Tognoli o in chi altra persona si identifica? No, un attimo, lei lo ha già identificato. Perfetto. Adesso non mi può porre una domanda, lei no. Ha detto si tratta dello stesso Piero. No, invece, voglio sapere invece, se si tratta dello stesso Piero. Guardi, mi consenta, lei non ha detto questo, ma comunque si è sbagliato, cioè ha mi dato per sbagliato. Scontato. Mi sono sbagliato, benissimo, voglio sapere se benissimo, questa lettera benissimo. Che lei... No, sa perché è importante il fatto dell'errore che lei ha commesso? Sì. Perché implicitamente attribuiva alla prima lettera che lei ha cominciato a leggere di questo compagno di cui per principio io non dico il nome, anche se lei l'ha detto un attimo fa. Budini? Non lo so. La prima lettera che lei ha letto. Beh, Bonanno, adesso. No, allora le dico molto semplicemente, non intendo rispondere. D'accordo. D'accordo. Beh, d'accordo. Allora, ragioniamo. Lei ha cercato, perché a me interessa la sostanza, non le persone. penso che sia anche un suo interesse questo, no? Cerchiamo di capire. La sostanza, lei cosa mi voleva far capire? Che qualcuno si rivolgeva a me nel tentativo di chiedere consiglio, o no? Sì. Beh, e io rispondevo, e siccome nella medesima lettera era citato un nome e cognome, il cui che cominciava con Piero, lei, dando per scontato che si trattasse del medesimo Piero della mia lettera dove c'era un'elencazione, ne deduceva che io stessi rispondendo ai consigli richiestimi nella prima lettera. Cosa che non è vero, perché si tratta di un altro Piero, e se lei avesse posto attenzione alla documentazione presentata da noi, avrebbe visto che il libro pubblicato in greco delle conferenze di Tessalonica, però con i titoli dei due relatori della conferenza tenuta all'Università delle Lettere di quella città, comprendeva il nome di un certo Piero, al quale io mi riferivo con la seconda lettera da lei indicata, e quell'elenco che lei sta cercando di far passare come dei consigli da me fornito al primo estensore della prima lettera risulta invece semplicemente la comunicazione dell'elenco di quello che io andavo a dire alla conferenza di Tessalonica, ad un ben altro Piero. Vede com'è importante il fatto che lei cercava di far passare che si trattava della medesima persona. No, no, per carità, io voglio... è così che si costruiscono i mostri, dottore, è così, stia tranquillo. Anche nella migliore delle buone intenzioni, come senz'altro è la sua, perché io parto dal presupposto che lei sia un uomo d'onore, no? Bene, e allora è così che si costruiscono, anche involontariamente. Va bene. Sì, il problema però riguarda la sostanza della lettera. Lasciamo stare. Sì, ma la sostanza è semplice, la medesima della scaletta che lei ha avuto il piacere, o diciamo la seccatura, di ascoltare da me nella volta precedente, la lunghissima lettera, la medesima cosa. Pigliamo i punti, sono gli stessi. Mentre visti in quell'ottica sembrerebbero dei consigli forniti da me all'estensore della prima lettera. Sì, sì, abbiamo chiarito. No, volevo sapere, questo progetto mediterraneo, se si identifica con il progetto di cui si parla nelle nuove svolte al capitalismo, oppure è una cosa diversa? Questo io volevo sapere soltanto. Sì, poi a margine volevo sapere se per caso quel Piero a cui era indirizzata quella lettera fosse quel Piero Tognoli oppure no. Tutto qui. Ma quello allora, che mi interessa parliamo è del progetto mediterraneo. Può dire qualcosa sul progetto? Sì, il progetto mediterraneo, ci sono diversi documenti di cui sicuramente l'accusa è in possesso, perché le perquisizioni sono state fatte in tante riprese e non sappiamo nemmeno quanta carta è stata portata via. È un discorso che riguarda un'organizzazione informale da tenersi a livello internazionale, se possibile, in una prossima riunione che ancora non siamo mai riusciti a fare, fra compagni, organizzazioni, gruppi di affinità di paesi diversi, per discutere sulla situazione del Mediterraneo, la quale ha certamente alcune caratteristiche particolari, essendo zona particolarmente calda, particolarmente colpita dalle trasformazioni politiche che si sono verificate negli ultimi 10 anni, la caduta dell'impero sovietico, la globalizzazione della gestione del mondo da parte degli USA e così via. Sono teoriche che sono state sviluppate in tanti modi, ma di cui sicuramente l'accusa deve essere in possesso, perché io sono certo che ha alcune teorizzazioni su questo argomento. Subito dopo, nella stessa occasione, è stata trovata anche un'altra lettera, sempre di sua, indirizzata a Costantino Cavalleri, che è un astronauta imputato, con cui appunto lei evidenzia alcuni aspetti del progetto mediterraneo, ancora una volta, e c'è un'affermazione che coincide un po' anche con quello che lei ha detto la volta scorsa, quando lei dice che tali ideologie, io vado per sé, sì, perché non posso fare la domanda, non vogliono dire apertura verso... Mi scusi, signor Rombo, io ho usato il termine ideologie? Questa è una credenza sua. È una credenza sua, perché lei mi carica di un termine talmente dispregevole, non è possibile. Mi faccia dire le cose giuste. Se vuole glielo dimostro, però non è questa la sede. Non è questa la sede, perché ideologia storicamente significa una cosa, cioè caricare con un fantasma inesistente una realtà che vuole essere trasformata da uomini che cercano di replicare il loro dominio intellettuale, cosa che certamente non mi si attiene, dottore. Quindi la prego, se lei mi cita, cerchi di citarmi con le parole mie. No, io non la sto citando. No. E allora quando io la devo citare, adesso dico fra virgolette, prego. Io sto usando delle espressioni forse improprie. secondo lei, sto usando l'espressione. Come lei aveva cominciato con dire, lei ha scritto a Costantino, mi pare, non so chi sia questo. Sì, sì, prego. No, poi adesso le posso, allora, la lettera finisce a un certo momento, fra virgolette, di questo le cose che bisogna fare, qua dice attinente alla pratica delle cose da fare e non più semplicemente alla teoria delle cose da dire. Come lei ha parlato la volta scorsa, la indissolubilità tra il progetto e l'azione, tra il dire e il fare, ecco, volevo che lei mi fornisse questa bellissima domanda con riferimento al progetto mediterraneo, però. Certo, ecco, bellissima domanda, perché vede, certe volte noi siamo tanto bravi a teorizzare, ma la realizzazione di una simbiosi contestuale fra fare e dire ripresenta sempre le solite difficoltà del mare che ci sta nel mezzo, questo è chiaro. Però là non è, diciamo, una differenza di natura sostanziale, ci sono delle cose da fare, ad esempio spedire una lettera, e c'è il contenuto della lettera, ad esempio quello che è stato comunicato tramite la lettera. I due momenti sono sicuramente separati e possono essere visti come aspetti di gradazioni differenti. Il contenuto della lettera verrà certamente considerato come più importante dell'affrancatura della lettera o di mettere la lettera alla posta. Però se lei considera questi due momenti separati, sono in effetti espressioni del medesimo momento. Perché se io scrivessi la lettera, la più bella lettera del mondo, la più incandescente, la tenessi nel cassetto, sarebbe come non averla scritta. Io mi riferisco quindi a questo fatto, le cose da fare, corrispondenza, sentire le persone, approfondire, muoversi, e poi le cose da dire, chiarimenti, approfondimenti, perché sono tematiche e discorsi che, come da lei, dottore, certamente avrà avuto modo di poter cogliere, con maggiore, io mi auguro con maggiore accuratezza in questa occasione, e sono un po' difficili, non sono schematismi ideologici. Sono elementi di approfondimento in cui il cuore dell'uomo, i sentimenti della persona si sposano con una concezione della vita diversa. Questi aspetti sono delicatamente difficili. Ecco perché si torna sempre sul discorso delle cose da fare e delle cose da dire. Non sono stato chiaro. Chiarissimo. No, che soprattutto fra le cose da fare c'è un'altra sua lettera che lei invia invece a Umberto, se poi ci vuol chiarire chi è questo Umberto, ne saremmo grati. E lei comunica a questo Umberto, adesso dico fra virgolette, conquista del potere, bisogno di un capo, monolitica organizzazione, lei contesta quello che ha detto, insomma, l'altra volta. No, scusi, non la seguo più. Io, tra virgolette, queste frasi sono viste in modo negativo, ci faccia capire. No, perché... che lei è contro. Ah, beh, no, per capirsi, perché sì, sennò... Come l'altro. Poi aggiunge, dice, la lotta, poi parla di questa lotta rivoluzionaria che ormai sta prendendo piede in tutto il mondo. Cioè, lotta dottore, scusa, lotta rivoluzionaria? Sì. Non ci vuole. Allora, tutta la frase. La faccio io, no, la frase no. Io faccio sarebbe troppo lungo, scusi. Ma anche più importante per capirci, no? Beh, allora, visto che lei ha parlato dell'annotazione e ce l'ha sotto gli occhi, forse, allora io dico quello che loro hanno scritto nell'annotazione. Loro scrivono, così io mi rendo neutro rispetto anche alle espressioni che sono usate. Una lettera di Bonanno a tale Umberto, con cui l'estensore comunica che al di là di ciò che non può condividere, conquista del potere, bisogno di un capo, monolitica organizzazione, fra virgolette, fra parentesi, c'è un uomo che vuole agire e che non si accontenta di dare il suo semplice contributo ad una ideologia che se era dominante o sta zoppito, senza per questo nulla impedisca che possa tornare a dominare nuovamente. Bonanno sostiene che la caratteristica essenziale degli anarchici è quella di cercare i propri compagni al di là delle ideologie, ma anche al di là di ogni possibile garanzia a proposito dell'uscita di un progetto o di un'organizzazione con tanto di programmi e organigrammi. La lotta rivoluzionaria ormai in tutto il mondo sta prendendo la strada dell'insurrezione e delle strutture minimali indirizzate verso l'attacco diretto diffuso sul territorio. I compagni non vogliono sentire parlare di vecchie concezioni organizzative, per cui si accordano su basi minime di organizzazione informale, quindi usano la sua espressione, Questo accade anche all'interno del movimento anarchico. E poi, e poi, e poi. Vogliamo chiarire che cosa invece sono... qui c'è una cosa che lei ha accettato, quella dell'organizzazione per gli attacchi alle strutture minimali. Che cosa intende lei per attacchi alle strutture minimali? Scusi, siccome vorrei commentarlo, mi sembra importante questo passo. Se lei volesse... Così la sentire, pagina 15. Delle annotazioni. Riguarda la sua posizione. Ci sono delle cartelle con tutti gli elementi a favore o a sfavore del... Sì, ce l'ho qua. Ce l'ha? Sì. A pagina 15. Sì. Poi del resto questo problema... Bene, ce l'ho proprio qua. Ecco, delle strutture minimali. Lei lo riaffronta anche in altri documenti che poi... Dove? Le posso indicare anche la pagina dove lei lo riaffronta. Quindi... Quello che non posso condividere, mi sembra chiaro, conquista del potere, bisogno di un capo, monolitica organizzazione, che poi sarebbe da dire che l'estensore medesimo che accusa di essere capo di un'organizzazione scritta per il mail che io ho scritto che non ho bisogno, che rifiuto chi ha bisogno di un capo, ognuno è padrone delle proprie contraddizioni. Quindi, al di là quindi di questa non condivisione, però, c'è un uomo che vuole agire, che non si accontenta di dare il suo semplice contributo ad una ideologia che è seria e dominante oggi sta applicando. Evidentemente sta parlando dell'ideologia che è collata alla caduta del muro di Berlino. Se che per quello impedisca che si possa per un futuro dominare la mente, perché il futuro è solo in grembo Giove. Manno sostiene che la caratteristica essenziale degli anarchici è quella di fare i propri compagni di là di queste e di altre ideologie. Ecco perché poc'anzi mi permettevo di sottolineare che non poteva essere un concetto mio. Infatti la domanda è la specificità del suo pensiero e la specificità di questa organizzazione, chiamiamola secondo la sua parola informale, noi la chiameremo in un'altra parola, questo io voglio capire. Specificità rispetto alle altre organizzazioni che purtroppo noi abbiamo conosciuto, perché si tratta di organizzazioni terroristiche che hanno insanguinato l'estate del nostro paese. Questo noi vogliamo sapere. Ma prego dottore, non mi faccia molcere il cuore con il sangue, perché questo mi comincia a sentire male. Questo è lo spirito che anima le mie domande ed è lo spirito che ha animato anche l'inchiesta e anima anche questo processo da parte mia. Scusi, dottore Marini, io non capisco, lei con questo affermazioni mi vuole impressionare, no? No, ma per carità, voglio soltanto... Vuole che io le dia un contributo, vuole seriamente che io le dia un contributo a quello che c'è scritto qua, oppure no? Lei non mi accusi di usare... Io non accuso nessuno, perché non sono un pubblico ministero. Perché vuole che io uso delle espressioni improprie, però se le uso ne chiedo scusa, perché voglio capire la specificità del suo pensiero e la specificità di questa organizzazione informale, rivoluzionaria, anarchica, insurrezionista di cui lei ha parlato. Bene. Forse non ci sono arrivato ancora e voglio approfittare dell'occasione che lei è qui per spiegare. Io sono lietissimo di collaborare con lei sotto questo esclusivo filo, di cercare di chiarire che cosa intendo io. Dunque, con... Io intervengo perché lei non deve chiarire niente al pubblico ministero, ma chiarire a noi corte. Vabbè, certo. Allora il problema è questo. Scusi, signor Presidente, mi scusi. Io recependo la domanda del pubblico ministero. Che concretezza ha o aveva questa organizzazione informale sul piano della concretezza? Questo credo che volesse sapere il pubblico ministero, ma comunque lo vogliamo sapere noi. Sul piano della concretezza, io non so se leggo bene la sua domanda, però vediamo. Sul piano della realtà, della concretezza. Un'organizzazione informale, come ho cercato di spiegare l'altra volta, è costituita da una serie di gruppi di affinità, di compagni quindi che si conoscono e agiscono, non soltanto fanno chiacchiere, stiamo attenti, agiscono indipendentemente gruppo da gruppo, i quali gruppi nella eventualità di un'azione comune, abbiamo fatto ad esempio l'altra volta l'esempio di Comes, abbiamo fatto l'esempio del compartimento ferroviario di Torino, si mettono insieme e costituiscono un'organizzazione informale specifica, come è stata il coordinamento delle leghe di Comes, come è stato il coordinamento, il movimento di base dei ferrovieri del compartimento di Torino per una determinata lotta specifica. Quindi la concretezza, se leggo bene quello che mi vuole chiedere lei, signor Presidente, riguarda questo aspetto, l'esistenza di un problema preciso non di una pregiudiziale ideologica che seleziona una serie di compagni o di gruppi in vista del raggiungimento di un obiettivo specifico per i gruppi stessi, la conquista del potere, l'abbattimento di determinati ostacoli e così via, il raggiungimento di determinati mezzi a disposizione e così via, ma soltanto il raggiungimento insieme alla gente dell'evoluzione o comunque dell'approfondimento di un problema che oggettivamente si presenta agli occhi essenzialmente delle persone che subiscono quel problema. Se parliamo in termini di concretezze, questa mi sembrava era chiaro. Tornando un attimo indietro, signor Presidente, la prego di scusarmi, ma io mi sono permesso di rivolgermi al pubblico ministero direttamente, non per volere non dar conto della vostra presenza in questa sede, ma semplicemente perché mi si parlava direttamente, quindi è, come dire, umano rispondere direttamente. Sì, senta, per favore, allora chiarisca anche questo punto. La differenza fra l'organizzazione informale e l'organizzazione formale, secondo questa sua tematica. Che differenza c'è fra l'organizzazione formale e l'organizzazione informale? Questa è la domanda. Dunque, dal punto di vista siamo nell'ambito della sua domanda. Certo, Presidente. Perfetto. L'organizzazione dal punto di vista tecnico. L'organizzazione dal punto di vista delle parole usate da voi. Quindi stiamo parlando di organizzazione anarchica formale o formalizzata o organizzazione anarchica informale. L'organizzazione anarchica formale o di sintesi è un'organizzazione che storicamente si è sviluppata nel tempo, si è data degli statuti, si è data un programma, si realizza nel suo aspetto operativo e programmatico in dei congressi periodici, all'interno dei quali congressi ad unanimità, che gli anarchici sono contro il principio della maggioranza e della minoranza, si decide le azioni da fare, quali settori in cui intervenire, i vari compagni che partecipano a questa organizzazione in modo stabile redigono una domanda di ammissione, vengono accettati, si prendono degli incarichi, si creano delle commissioni che si interessano ognuno dei vari settori, scuola, case, i vari settori in cui si realizza la differenza sociale, quartieri, fabbriche, lavoro e così via. Questa è la vita, grosso modo, di un'organizzazione di sintesi, di cui possiamo ad esempio fare l'esempio storico della FAI a livello internazionale, perché le federazioni anarchiche esistono in tutto il mondo. Un'organizzazione invece che non accetta la pesantezza, la difficoltà burocratica di funzionamento, che invece ritiene che ogni anarchico possa agire assolutamente indipendente l'uno dall'altro e che si possa cercare i suoi compagni come meglio crede, sulla base dell'affinità, cioè dire della conoscenza, e quindi gettando uno sguardo indietro verso le esperienze che ognuno di noi realizza, e crea quindi una piccola coesione fra i piccoli gruppi che abbiamo chiamato gruppi d'affinità, si possono fare in tanti modi, e che cerca attraverso questi gruppi di esaminare la realtà liberamente, senza stare a vederla attraverso l'ottica di un'organizzazione cristallizzata, qual è l'organizzazione di sintesi che preesiste alla formazione del singolo gruppo. Se fa questo, può trovarsi, come ripeto ormai fino a tedio mi sembra, può trovarsi davanti alla situazione di una lotta talmente complessa, talmente articolata. Lei pensa, signor Presidente, che a Comiso noi siamo rimasti per ben 2 anni, non un giorno, cioè fisicamente a Comiso. Quindi articolata, che rende necessario entrare in contatto con altri gruppi di affinità, non soltanto del medesimo posto, ma anche all'estero, perché i compagni che sono intervenuti a Comiso erano anche inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi, non erano soltanto italiani. La esclusiva finalità di partecipare insieme alla gente a cercare di risolvere, sviluppare, acuire e portare anche le estreme conseguenze di natura insurrezionale e successivamente rivoluzionaria, quella lotta che comincia soltanto con la pena, la sofferenza, il bisogno che un gruppo di persone più o meno vasto avverte in un contesto preciso. Quindi la differenza, non so se comincia a emergere, signor Presidente, con chiarezza. La specificità dell'organizzazione informale, ed è per questo che si è ricorso a questo termine, se si vuole anche infelice, e anche spesso in altre lingue non facilmente traducibile, e dipende dal fatto di far notare che non c'è la formalizzazione, a volte soffocante, di un'organizzazione che storicamente si presenta come la portatrice di una, questa volta sì, ideologia che proviene dal passato. Poi pubblico ministero. Sì, allora questa specificità di questa organizzazione comporta anche la realizzazione oggi, subito, ora, di quelli che sono i progetti, perché lei a un certo momento dice: siamo anarchici insurrezionalisti perché vogliamo distruggere un assetto capitalista della realtà mondiale che grazie alla ristrutturazione informatica è diventata tecnologicamente utile soltanto ai gestori del dominio di classe. Perché siamo per attacco immediato, distruttivo, contro le singole strutture, individui e organizzazioni del capitale dello Stato. Perché, criticando chi ritiene ormai impossibile la lotta rivoluzionaria, vogliamo farla finita con questo stato di cose, subito, lei dice, e non quando le condizioni esterne renderanno possibile la sua trasformazione. La specificità di questa organizzazione informale o di questo progetto che sta alla base di questa organizzazione informale è questa qui? E adesso la risposta, se mi consente, per essere chiara. Deve essere? Per essere chiara, sì. La mia risposta, signor Presidente, ha bisogno di una piccola chiarificazione su quelle che sono le modificazioni che sono avvenute in questi ultimi 20 anni. Perché la scelta fra organizzazione di sintesi e organizzazione informale non è una questione di soddisfazione personale, di sentimento, di modo di vedere le cose soltanto, ma è anche legata ad un'interpretazione delle trasformazioni che la struttura capitalista ha subito negli ultimi 20 anni. A nostro avviso, a mio avviso, si adegua più, è più adeguata ad una lotta rivoluzionaria e insurrezionalista oggi una struttura informale per un motivo molto semplice. Perché? A partire dal 1980 la realtà produttiva dei grandi paesi a capitalismo avanzato ha risolto un problema fondamentale che minacciava di fare veramente crollare il sistema capitalista, ed era quello dell'eccessiva rigidità del costo di lavoro, cioè di rimpianti fissi non facilmente gestibili, non facilmente modificabili, forti organizzazioni sindacali capaci di chiedere livelli salariali troppo al di là della reale produttività del singolo. Ora, l'ideologia che sostiene, il termine qua è esatto, l'organizzazione tradizionale di sintesi si collega grosso modo in una visione, se vogliamo escatologica, della rivoluzione, che un bel giorno, come dicevano i rivoluzionari del secolo passato, la grande soirée, la grande sera in cui scoppia la rivoluzione, gli strumenti produttivi si sottraggono alla ingiusta disponibilità dei padroni e si conservano nelle mani delle organizzazioni operaie. Questo aveva una sua logica finché il capitale non ha modificato la sua struttura produttiva, trasformando velocemente, grazie principalmente alle tecnologie telematiche e grazie anche ad analisi che sono state sviluppate da teorici, particolarmente Modigliani, Tarantelli, cioè dire i teorici dell'economia che hanno detto: no, signori capitalisti, non avete paura, il costo del lavoro si può ridurre, si può inserire il concetto di flessibilità, la gente si può licenziare, non avete paura che non succeda niente di particolare, però bisogna fare alcune cose, realizzare un governo forte, se vi ricordate il periodo della Thatcher, il periodo di Craxi, un governo forte, e contemporaneamente sviluppare i concetti di flessibilità, quindi ridurre l'incidenza dei sindacati e sostanzialmente determinare una trasformazione produttiva basata sulla robotistica, su una flessibilità delle catene di montaggio, sulla distruzione di una centralizzazione della classe operaia, una frantumazione che adesso rende impossibile, a nostro avviso, un'analisi opinabile per carità, impossibile applicare il metodo tradizionale della grande sera, del gran giorno, del passaggio semplicemente, se si vuole anche sanguinoso, anche terribile, della rivoluzione, nel passaggio degli mezzi produttivi dalla disponibilità dei padroni alle organizzazioni operai. Di questi mezzi produttivi, a nostro modestissimo avviso, non c'è più nulla da fare, quindi occorre cominciare a distruggerli da oggi. Queste tesi per cui riteniamo che corra un'organizzazione informale che liberamente teorizzi questo fatto e realizzi ognuno per conto suo quello che vuole fare, un attacco distruttivo a oggi, partendo oggi, perché non possiamo pensare di utilizzare strumenti di questo tipo in una società veramente libera, che deve quindi nascere attraverso una catastrofe completa di dove è la situazione in cui ci troviamo, situazione in cui tutti stiamo vivendo una vita allucinata, o se si vuole, per usare un termine moderno, una vita virtuale, non reale. mentre una volta era possibile utilizzare, oggi veramente pensate che si possono utilizzare questi strumenti per una società veramente libera? Ecco, noi non lo pensiamo, ecco perché parliamo in quei termini, mentre le organizzazioni classiche continuano, di sintesi, continuano ancora a ipotizzare la visione di questo passaggio e di questo utilizzo. Il contrasto è proprio su questo punto. Vede, su questo punto la notazione di cui lei parla, quindi no, adesso lei risponderà, mi sembra abbastanza puntuale, perché quando dice che a dire del Bonanno l'obiettivo da combattere è certamente lo Stato, non solo come idea Stato però, ma anche come cosa Stato, fra virgolette, costituita sia dalla struttura sia dai singoli individui. Lei adesso poco fa ha parlato di strutture da battere, da distruggere, certo. E gli individui? Anche gli individui fanno. Ma lei ha mai visto un carcere? Si devono eliminare. Ma non metta al muro in questo modo, guardi. No, non accetto di essere messo al muro in questo modo. Guardi, ha mai visto funzionare un carcere senza carcerieri? Vuole rispondere? Ho già risposto, secondo me. Se vuole la taglio la mia. No, ha già risposto, ha dato una scelta risposta. Cioè, non ho capito, che significa ha visto mai funzionare un carcere senza carcerieri? C'è una connessione ragionevole e logica. In cui è stata incarcerata una persona che poi è morta. Qui abbiamo anche questo in questo processo. Non ho capito. Oltre, qui in questo processo abbiamo due reati che riguardano gli individui, le persone. Abbiamo una strage in cui si è cercato di far saltare in aria dei poliziotti e abbiamo un sequestro di persona anche in cui è stata incarcerata, come lei dice, una persona e poi è morta. Quindi io volevo capire cosa intende lei quando parla di cosa Stato, si riferisce alle strutture e individui. Lei ha risposto, ma esiste un carcere senza carcerieri? Significa che bisogna abbattere anche individui? Ma è logico, è logico. Grazie, non altro. Vediamo allora che cosa, per quanto riguarda sempre queste strutture minimali, perché lei poi dice in questo documento che ha esaminato, per l'attacco ora e subito e non da programmarsi per un futuro in cui i tempi saranno maturi, sosteniamo che interventi a distruggere le realizzazioni del capitale dello Stato nel territorio sarebbero da privilegiarsi, a nostro avviso, ritorno per capire determinate cose, le strutture minimali, e ciò perché proprio su queste strutture si basa la diffusione nel territorio del capitale e anche, sebbene un po' meno, dello Stato. I grandi centri che ancora persistono significano soltanto simboli di qualcosa che non c'è più, o se c'è, di qualcosa che deve essere assistita da una miriade di collegamenti terminali, cavi, fili, condotti, tubi, centraline, antenne, tralicci, pali, centri di smistamento, centri di ricerca e così via. Senza i lei l'ha vista nell'annotazione, si parla di attentati, tanto per cominciare, sì. Dei tralicci all'Enel, erano un obiettivo anche di questa organizzazione informale gli attentati dei tralicci all'Enel? Non ci siamo capiti allora. Non ci siamo capiti. Allora, se me lo vuol far capire. Aspetti, forse si può capire meglio con questa domanda. Aspetta, se mi si chiede... Vediamo un momento se ho capito io l'essenza della domanda. No, scusi, signor Presidente. Sì, è una cosa radicale, che bisogna rispondere immediatamente. No, perché io non voglio essere filtrato dalla sua cortesia. Il pubblico ministero sta cercando di mettermi al muro facendomi dire implicitamente se qualcosa era compito di qualcosa, ma secondo qualcosa non esiste, quindi come può essere compito di qualcosa se non esiste un qualcosa detto prima? La domanda è questa, l'organizzazione informale di cui lei ha parlato aveva come programma o ha come programma o avrà come programma gli attentati a Enel, questo voleva sapere il pubblico ministero. Mi sconsenta, non è vero, il pubblico ministero non ha detto l'organizzazione informale di cui lei ha parlato, ha detto questa organizzazione informale. E no, sape, io con le parole ci lavoro, per cui stamattina. Ha detto questa, e non c'è questa organizzazione informale, non stiamo parlando di una organizzazione informale. Noi dobbiamo scegliere nel concreto, non parliamo, le cose astratte non ci interessano, a noi interessano le cose concrete. La domanda per questo l'ho formulata io, perché in concreto l'organizzazione informale di cui lei ha parlato ha avuto come oggetto, come programma, quello di fare attentati Enel? Signor Presidente, io non ho parlato di una specifica organizzazione informale, questo non l'ho fatto mai. Io ho parlato di che cos'è una organizzazione informale. la quale, una volta esistita, si può interessare, come è accaduto storicamente ad esempio a Comiso o a Torino, di risolvere i problemi dei che erano sul tappeto in quel momento. In altre situazioni potrebbe anche risolvere problemi di tipo diverso e potrebbero anche compagni anarchici autonomamente decidere di procedere all'attacco di determinate persone o cose su cui io non ho modo di poter dare indicazioni, né chiarificatori in linea teorica, né ovviamente in linea pratica. Però se mi si dice, lei ha parlato di questa organizzazione formale, ritorna un'altra volta a camminare in quest'aula sui suoi piedi, il fantasma di cui nessuno ha mai visto il volto. Allora, pubblico ministero? Per la specificità. Per la specificità di questa organizzazione, io le leggo un'altra lettera che lei ha inviato ad una persona alle care, sicuramente a lei, perché lei, perché è stata, mi sembra, la sua compagna. No, non intendo rispondere. Comunque, nella lettera lei dice, da data 6/12/94, scritta al computer da Bonanno, e indirizzata alla Vere sulle recenti perquisizioni subite da lui e da altri compagni, puntualizza da quale autorità sono state disposte e poi comunica. Scusi, dottore, potrebbe parlare un po' più forte. Comunica l'iniziativa di Antonio Budini di pubblicare un opuscolo che toccherà i seguenti punti: bisogno di soldi, armamento, preparazione, azione, fuga, inseguimento e così via. Questi punti che lei indica al. Lei chi? Lei Bonanno, perché è una sua lettera. No, se lei la prende a pagina 16. È del medesimo documento. Medesimo. Sì. Una lettera datata Firenze 6/12/1994. Sì. Dica. Vuole chiarire che cosa intendeva lei per armamento, più che bisogno di soldi, lo sappiamo, perché le rapine erano una vostra, un modo di... Ma guardi, lo avete scritto anche nel famoso dossier del subito dopo la rapina di Bergamo, che era un vostro modo di vita. Noi diciamo che è un modo di autofinanziamento dell'organizzazione, però a me interessa l'armamento in questo momento. No, aspetti un attimo, a me interessa invece partire da questo concetto, che quello che ha letto lei ci ha messo di pubblicare un opuscoletto. Quindi evidentemente... i seguenti punti. Sì. Quindi evidentemente c'era in mente il progetto, la siccome siamo... No, un progetto, un opuscoletto non è un progetto, un opuscoletto è un pezzo di carta su cui si sviluppa un progetto. Vabbè. Quindi io mi limitavo... Ci danno anche delle direttive, delle indicazioni, delle... No? Abbiamo adesso, io fra poco... Come delle direttive? Le sottoporrò il famoso opuscolo dell'anarchico esplosivista che abbiamo acquisito agli altri. Se poi lei ce lo vorrà commentare... Non lo conosco. Non lo conosce questo? No. Quindi qua si riferisce ad un'iniziativa di pubblicare questo opuscoletto con questi argomenti. Sì. Quindi di sviluppare alcuni punti che non sono qualcosa che voglio scrivere io, che voglio scrivere un'altra persona. Sì, e lei che cosa è? Lei che posizione? Cioè, non posso risponderle perché attiene alla decisione. No, scusi, se questo era una cosa che volevo scrivere io, allora gli rispondevo ben volentieri. No, perché subito dopo, nella lettera successiva, io che lei troverà lì, nel 12, Bonanno esprime al Budino le sue perplessità sull'opportunità di pubblicare l'opuscolo relativo alle rapine di Rovereto. Nell'eventualità comunque che i compagni tendessero a pubblicare l'opuscolo, Bonanno avrebbe fornito la sua totale collaborazione. Cioè, io vedo qui ci sono decine di lettere in cui a lei gli si viene a chiedere sempre se si può fare una cosa, se non la si può fare, si deve fare, se lei è opportuno, se non è opportuno. Cioè, quale posizione lei assume, non dico in questa organizzazione informale, ma rispetto a queste decine e decine di persone che le scrivono per chiedere i suoi consigli, fra virgolette? Vuoi rispondere a questa domanda? Sì. A parte il fatto che non intendo rispondere sulle persone, quindi su questo posso rispondere. E difatti nel secondo punto indicato da lei io esprimo le mie perplessità. Non dico un diktat. ma si può capire. Non si può capire invece, se si vuole capire, certo. Si capisce che uno può, certo, avere delle... può lei condividere. Lei deve consigliare se è opportuno o no pubblicizzare determinate cose. E io quello voglio capire. E perché lei usa il termine consigliare e non esprime la mia opinione? Certo. E perché la mia opinione dovrebbe essere un consiglio? Se non nei termini in cui può essere un consiglio interpretato dall'altro, ma non è che da parte mia è considerato come un consiglio. O qualcuno che scrive a me, non è che deve necessariamente scrivere per avere un consiglio, può scrivere per avere un chiarimento, per avere un approfondimento, perché strettamente su determinati argomenti sono in grado, forse per mia sfortuna, di avere una maggiore conoscenza o essere in grado di arrivare a un approfondimento maggiore. Certo. Questo, caro mio, non si chiama autorità, si chiama autorevolezza, che sono due concetti diversi. Si chiama? Autorevolezza, non autorità. Autorevolezza, pubblico mistero. Scusi, tanto per capire, cioè lei dice non è che io vado a dire delle cose, a dare delle direttive agli altri, ma se gli altri mi chiedono la mia opinione io non mi tiro indietro, certo. Questo lo sta dicendo. Certo. Mi scusi, il concetto stesso di dare direttive è evidentemente inapplicabile fra gli anarchici, certo. Perché se dimentichiamo questo, tutto può suonare anche... quasi vicino a quello che dice il dottor Marini, mentre è lontanissimo da quello, per questo si aspetta, perché siamo fra anarchici, fra persone che anarchiche non sono, probabilmente una condizione come la mia, di su alcuni argomenti, sia pur di trascurabile importanza, con maggiore preparazione, il discorso poteva veramente essere quello di una direttiva. Io non lo nego che sul piano puramente letterale o astratto c'è questa somiglianza, ma siamo fra anarchici, dottore, lei faccia sto sforzo, si cali un attimo nella realtà di quello che lei cerca di capire, perché io mi auguro che sia questo il suo scopo, no? Bene, e allora cerchi di calarsi in questa, lei pensa seriamente che un anarchico che è contro tutti, contro Dio, contro il mondo, accetti veramente di chiedere ad un altro anarchico, sia pure più grosso di statura o di preparazione, una direttiva? Ma stiamo scherzando? Non lo so, perché vede Bonanno, ce n'ho decine di queste cose, perché poi nella successiva lettera, una lettera manoscritta da dare a Firenze 4595, Bonanno indirizzata alla Veil, con cui l'estessore, oltre ad informare la donna di recenti attriti sorti con Frisetti e Anzoini, perché gli attriti esistono in tutti i gruppi, in tutte le organizzazioni e anche nelle buone famiglie, no? Precisa che per il lavoro di tipo istituzionale c'è ancora molto da fare, trattandosi di un intervento esclusivamente nostro, solo anarchico, cito fra virgolette, lei lo sta seguendo a pagina 17, e quindi filtrato in modo assoluto dalle nostre scelte ideologiche. Lei qua parla di filtro delle sue scelte ideologiche, o nostre. Poco fa ha detto che lei non parla mai di ideologia, qui parla di scelte ideologiche. Allora io vorrei capire... questo mondo di attriti, di consigli chiesti o non chiesti, rispettati o non rispettati, in concreto, come dice il Presidente, lei che posizione aveva assunto in questo mondo? Guardi, innanzitutto... perché io le posso, adesso noi possiamo andare fino anche domani mattina, io le posso prendere le decine, centinaia di documenti che sono stati sequestrati durante quei giorni delle perquisizioni. E guarda caso, fanno riferimento la maggior parte proprio a lei, mi dispiace, anche perché lei mi deve capire, io devo riscontrare, come mi obbliga la legge, una dichiarazione fatta in quest'Aula dalla Moide Namsevi, in cui dice questa organizzazione faceva capo a Bonanno Alfredo Maria. Questa organizzazione non poteva passo se non chiedeva a Bonanno cosa bisognava fare. Questa organizzazione faceva rapine che poi venivano, che di cui Bonanno era sempre informato. Questa organizzazione, dopo aver i gruppi di affinità, dopo aver commesso le rapine, aveva una cassa comune. Una cassa comune in cui andava una parte dei proventi delle rapine che veniva gestita dall'organizzazione. Io mi auguro che queste leggi. Vede Bonanno, non è che io mi sto, per carità. Cosa da dire? Io sto solamente. Sì, d'accordo, abbiamo capito. Diamo la parola all'imputato. Se ho capito, signor Presidente, non so se la domanda riguardava ancora questa lettera. Sto dicendo per spiegare il mio atteggiamento, il mio comportamento. Sì, però. la lettera mi hanno scritto, io evidentemente da quel che posso capire leggendo questa citazione qua mi riferisco a delle questioni che sono sorte fra di noi, certo. E per carità, fra gli anacchi ci sorgono sempre delle questioni, ma perché sorgono queste? Io ho questo documento, in quest'aula si è inneggiato la lotta armata, si è inneggiato lo scontro armato, non mi devo capire fra quelli di chi era. Non mi impressiona questa tirata, dottor Marini, perché io so qual è il peso delle chiacchiere retoriche e qual è il peso dei fatti. Andiamo con calma, se mi consente. Negli anarchici, fra gli anarchici, ci sorgono spesso dei contrasti anche per quisquiglie, per cose anche che persone non anarchiche non troverebbero di nessuna importanza. Questo che cosa la dovrebbe fare entrare in sospetto? Su che cosa? Sul fatto che evidentemente ogni anarchico ha una fortissima individualità che vuole a tutti i costi difendere. Perché troveremo, fra le tante carte che sono in suo possesso, spesse volte si riferisce a questo, che questo non si intende con questo, c'è stato questo problema, divergenze d'opinioni, eccetera, eccetera. Perché non siamo davanti ad un'organizzazione monolitica? Perché non c'è uno che comanda e dice tu devi fare questo, se no tu ti trovi fuori dall'organizzazione? Proprio per questo. La ricchezza dell'anarchismo è proprio la discussione, la polemica, la divergenza, anche al limite quello che potrebbe essere considerato come il deserto delle assolute inutilità, quale l'incapacità di agire, quale ognuno la pensa per sé. Perché ogni testa, diceva mio padre, buonanima, è un ministero. E gli anarchici realizzano anche al limite questo. Quindi quando si mettono d'accordo per spontanea decisione, per capacità spontanea di pervenire ad un'analisi critica che li fa acconsentire ad un progetto da loro stessi ritenuto, ritenuto valido e quindi come se fosse elaborato da loro stessi. Se lei vuole entrare all'interno di questa dimensione comprenderebbe anche questo tipo di lettere. Quando io mi riferisco alle scelte ideologiche, evidentemente mi riferisco non a scelte ideologiche nel senso che avevamo criticato prima, ma a scelte ideologiche prese da chi ovviamente faceva o affermava delle considerazioni critiche che da me non condivise e quindi da me considerate scelte ideologiche. Quindi non c'è un contrasto, anche se fra virgolette la parola ideologia, non c'è un contrasto con quello che ho detto prima, perché evidentemente mi riferisco a contrasti, con come la penso io, contrasti quotidiani fra anarchici. Quindi questo in un certo senso, anche se lei trova, come dice, una miriade di riferimenti alla mia persona e tutte queste cose, sono vissuti all'interno di una fortissima autonomia dell'individuo che rivive e sottopone all'insindacabile giudizio del singolo l'eventuale, io voglio pure dire, l'eventuale suggerimento che dovesse improvvidamente venire dalla mia penna, improvvidamente, perché farei un cattivo servizio, ma però correnti calmo può pure sfuggire una cosa del genere. Lei me la pesca come una perla e mi dice guarda il buon anno, lei ci ha detto a Cristo di fare sta cosa così, sì va bene, ma in effetti chi lo sto dicendo? Non lo sto dicendo ad un poliziotto, ad un carabinieri per intacca cadavere, non lo sto dicendo ad un gesuita, lo sto dicendo anarchico. Ma vede Bonanno, a dire di questi suggerimenti, diciamo così, di scelte ideologiche, io ho altri inviti da parte sua, ho altri suggerimenti che lasciano pensare, se lei mi permette, perché non voglio. Perché fra le altre cose che indicano i Pinieri a pagina 12, e poi ne citeremo altri, ce n'è una bella, come la chiama lei. No, telegramma inviato da Bonanno Alfredo a Budini Antonio, aperte virgolette, quello fra di voi che non hanno già la nomina a favore dell'avvocato Venturino, sostituite provvisoriamente avvocato Canestrini con avvocato Venturino, onde consentire a quest'ultimo un colloquio con voi tre, che potrebbe aversi al più presto. Subito dopo, ripristinate nomina avvocato Canestrini, bacio a tre, mittente Stefano Monreale, via Molino, insomma lei interviene anche a dare suggerimenti, consigli, a aiutare i rapiti che sono stati arrestati. Ma insomma la sua posizione con queste persone qual è? Ah, momento. A pagina 12, se la vede, io questo voglio capire. E poi le citerò altri suoi interventi. A pagina 12 in ultimo. Io non so per qual motivo ho inviato questo documento, ma questo telegramma, perché non posso essere nella situazione in cui... Ma evidentemente si tratta di una questione di inserire anche l'avvocato Venturino, perché è l'avvocato di una delle persone, anche di una delle persone inserite qui dentro della rapina. No, cerchiamo di... Io sto facendo uno sforzo. No, stavo parlando dell'avvocato Venturino qua, abbia pazienza. E le hanno detto anche in quella informativa che lei presenziava tutti i processi. È andata per la mia moglie che io per la prima volta vedevo dietro la sbarra. Si rende conto lei? Andiamo per 5 minuti. 5 minuti di pausa. Poi controllo, adesso mi copriamo il 12 gennaio. Allora, pubblico mistero, possiamo iniziare, riprendere anzi. Grazie. Intanto io faccio... Senta Bonanno, per il momento possiamo ritornare su quel punto di cui lei ha parlato, perché anche qui volevo dei chiarimenti. Perché i carabinieri, come lei sa, a pagina 18, e lei già ne ha parlato, indicano questa circostanza. L'ha trovato a pagina 18? Sì. Dal 13 al 15 maggio del 1988, in Forlì, nel corso di un convegno antimedievista organizzato dalla FAI, Bonanno Alfredo, Scoppetta Maria Grazia, Porco Piallone e Casamenti Patrizia, che avevano invitato i proprietari a fare propria l'azione diretta, sovversiva, fuori e contro ogni delega, ecco, venivano accusati di terrorismo dagli oratori ed estromessi dal congresso. Lei la volta scorsa ha detto che la FAI ha mandato un documento, lo ha prodotto, che questo congresso non c'è stato. Invece no. Lei davanti al giudice delle indagini ha detto la stessa cosa. Ha dichiarato che no, ha dichiarato che c'è stato un convegno, che non era un congresso. Convegno, sì. Che cos'era allora? Un convegno antimilitarista. Ma questo non organizzato dalla FAI. Al di là dell'espressione usata dai carabinieri, congresso o convegno. Questo convegno da chi era stato organizzato? Da compagnie così spesso. Non dalla FAI. Quindi l'improprietà sta che quando si parla di congresso organizzato dalla FAI. No, l'improprietà ce n'è tante qua, scusi. Cioè, no. Non è un congresso, ecco, non è organizzato dalla FAI. Non siamo stati buttati fuori dal congresso e né tantomeno dalla FAI. L'improprietà ha voglia che ce ne sono. E se io ritrovo le registrazioni che adesso ho chiesto, le registrazioni di questo convegno, dei suoi interventi, poi insomma ne possiamo parlare. Esattamente. Quindi poi non è vero, perché qui si riporta fra virgolette la frase che lei avrebbe detto. Ah, questo non so se l'ho detto, io non ho la registrazione, non so. Vabbè. Può anche darsi, non no. Questo convegno di che cosa doveva parlare? Antimilitarista. Di antimilitarista. E la sua posizione in questo convegno qual è stata? La posizione antimilitarista no. Innanzitutto vuole specificare se lei effettivamente c'è andato insieme con questo. Sì, persone. No, non saprei cosa dirle. Io personalmente c'ero. C'era? Ha fatto un intervento? Sì, signore. Che tipo di intervento? Intervento antimilitarista, così come penso io che sia da impostare la lotta insurrezionale contro gli eserciti, contro la guerra, contro i massacri che dappertutto vengono attuati. Contro il nostro paese, che è il principale fabbricante di armi, di mine, per le quali muoiono migliaia, decine di migliaia di bambini ogni giorno. E questo è un argomento, secondo me, validissimo. Ecco, contro tutta questa industria di morte, contro questa pazzia, di cui l'Italia è sicuramente uno dei paesi al primo posto, occorre fare qualcosa. Ho capito. E non è vero che voi siete stati accusati di terrorismo? Ed è estromessi dal convegno. No, che siamo stati accusati di terrorismo non so cosa dirle perché non me lo ricordo. Potrebbe anche darsi da no. Lei mi farebbe veramente una circostanza, forse se la ricorda meglio, cioè siete stati accettati così anche dopo i vostri interventi o siete stati estromessi? No. Siamo stati estromessi né tantomeno siamo stati estromessi dalla FAI, da cui non facevamo mai parte. Ma FAI ha ammesso l'errore dei carabinieri. No, che scusa, non si tratta di un congresso della FAI, ma si tratta di un convegno antimilitarista a quale lei ha partecipato. Vediamo la circostanza di contenuto, del fatto. È vero o non è vero che siete stati tacciati di terrorismo? Lei ha detto non me lo ricordo. Non posso, è vero non posso. O non è vero se siete stati estromessi dalla cosa? Lei dice assolutamente no. No. Okay. Stavo dicendo, però, sì. Professor Bonanno, qualcosa. Voi sì. Fate parte della FAI? No. Questo, è importante questo. Però, signor Presidente, mi consenta, se una formulazione consta di più parti, le quali parti, nella loro stragrande maggioranza, 4 su 5, si rivelano assolutamente infondati. Io non so cosa pensare dell'intera formulazione, non che la quinta, qualora magari venga dimostrata, ad esempio, se siamo o meno accusati di terrorismo, io non me lo posso ricordare adesso, però se il pubblico ministero avesse la bontà di darci lettura dell'intera dibattito che durò 2 giorni o un giorno, non mi ricordo, comunque parecchio, in quella sede potremmo dire qualcosa di più fondato, se no di che cosa stiamo parlando? No, va bene, sì, scusi, lei sa... Scusi un attimo, lei l'altro giorno ha iniziato la sua difesa citando punto per punto alcune passi dell'annotazione dei carabinieri. Io adesso mi sto permettendo, da parte mia, dall'altra parte, di contestare altri passi che lei... No, io ho parlato di questo passo, no? Ho parlato sì, di questo. Sì, ha parlato, però siccome io ho trovato una sua dichiarazione davanti al GIP in cui lei... ha ammesso di aver partecipato a questo convegno, non si trattava di organizzare dalla FAI, volevo sapere se quantomeno il contenuto di questo passo fosse insomma veritiero oppure no, giusto? Questo anche perché lei sa. Io non posso avere a memoria la totale estensione del mio intervento, quindi non posso dire questo passo, io non ne posseggo la trascrizione, sia di mia penna, ossia una gentile interpretazione del carabiniere estentore, questo spetterebbe a lei portarci qui dentro la registrazione, ma poi se vuole gli posso pure dire che lo sottoscrivo questa frase, non cambia nulla, è una frase come tante altre. Sì, io però vorremmo capire una cosa, lei ha detto sono un anarchico, lei quindi dice anche faccio parte del movimento anarchico. Certamente. Il movimento anarchico è articolato in una federazione? Non tutto. Ecco, ci spieghi perché non sappiamo molto sull'argomento. Poc'anzi ho cercato, forse infelicemente, il Movimento Anarchico si articola a livello mondiale o a livello nazionale in tante organizzazioni. Diciamo, la FAI è un'organizzazione di sintesi con le sue strutture storicamente determinate, eccetera, eccetera. Io non ho mai fatto parte della FAI con i suoi gruppi, le sue commissioni, i suoi programmi. Il programma di Malatesta del 22 è stato rivisto, approfondito, modificato, però sostanzialmente è ancora attuato. Viceversa, altri anarchici non accettano l'ipotesi di organizzarsi in modo stabile. Se lei, signor Presidente, ha in mente quei 3 punti di cui si parla più volte, forse ripetutamente, magari nei vari documenti organizzativi riguardanti le organizzazioni informali costituite a Comiso e a sì. Torino, ci sono quei punti della conflittualità permanente, dell'autonomia della lotta. Ecco, questi punti costituiscono non soltanto elementi programmatici, ma anche elementi di natura teorica, che caratterizzano un certo modo di vedere l'anarchismo. Ad esempio, l'assenza di un programma dettagliato, cosa che invece accade per l'organizzazione di sintesi. Quindi il gruppo di affinità non ha un programma di gruppo d'affinità, non esiste una teoria programmatica del gruppo d'affinità, come invece esiste per i gruppi di sintesi che hanno un programma redatto da Malatesta, quale a sua volta si riferisce ai principi di Sant'Emie del 1800. Quindi la FAI non vi poteva espellere per la semplice ragione. Abbiamo mai fatto parte della FAI. Continui pure, pubblico ministero. Lei ha consegnato l'altra volta una serie di periodici come provocazione, anarchismo e... Scusi, non mi sembra che abbia consegnato provocazione, forse mi ricordo male. No, provocazione forse no, anarchismo. Ma ad essere precisi, signor Ministero. Ed altri? C'è un numero. Comunque volevo sapere, nei confronti di questi periodici, provocazione anarchismo, lei in che posizione stava? Ne era, era il redattore responsabile. Era il redattore responsabile. Da quando a quando? l'anarchismo dalla sua costituzione e anche dalla sua costituzione per, come si chiama, per provocazione, già nel periodo che ero in carcere. E quando lei è stato in carcere chi ha assunto le decisioni? Questo non me lo ricordo. Noi abbiamo una cosa che l'ha assunta Roberto Paolo. Questo lo sa lei, me ne congratulo. Lei non lo sa? Non lo so. Pubblico Ministero, per favore, qui dobbiamo essere più precisi nelle domande, nel senso che a noi interessa sapere quando provocazione fu costituita. Gennaio del 1987. Pubblica, esce ancora? No. Quando ha cessato la pubblicazione? 1991. Anarchismo, quando è stato fondato? Nel gennaio del 1975. Esce ancora? No. Quando è cessato? 1994, se non sbaglio. Cane Nero. Lei è stato un collaboratore di Cane sì, Nero? Sì, signore. Fondato quando? Nel 94. Esce ancora? No. Finito quando? Questa è più difficile, non lo so. Vabbè. 90, 97 forse. Poi c'è una rivista, mi sembra che si chiami GAS, G-A-S. Lei è interessato a questa rivista? No, come redattore no. Però, scusi, una cosa importante, perché non vorrei che mi si facesse dire una cosa sbagliata senza volerlo da parte mia. Spesse volte alcune riviste anarchiche, ai fini legali, diciamo, dell'autorizzazione per la pubblicazione, mettono la nostra autorizzazione ed escono come supplemento. Certe volte io magari vengo avvertito, certe volte non vengo avvertito, sì. Per cui non so, in omaggio al principio anarchico che ognuno fa per sé, e quindi certe volte mi trovo ad essere responsabile di pubblicazioni. Ho anche avuto processi riguardanti pubblicazioni di cui non avevo avuto conoscenza nemmeno. Allora, delle GAS. Prego? GAS. Io conosco questa pubblicazione, però non le so dire se ne sono anch'io responsabile, perché potrebbe essere di sì e potrebbe essere di no. Bisognerebbe prenderla. Esce tuttora? Non lo so. Ecco, allora Pubblico Ministero può riprendere. Grazie. Una volta precisate le epoche in cui sono uscite o escono queste riviste. Cane Nero aveva come base per la redazione la casa di Moreale a Firenze? Non lo so. Non lo sa? Non c'è mai stato? Non lo so. Non rispondo, non è che non lo so. Cioè, non prendiamoci. Non prendiamoci. Allora, diciamo così, a tutta quella serie di annotazioni in cui si dice che Bonanno era presente sempre nelle cosiddette basi logistiche di questa organizzazione, io non devo fare domande? No, non è che lei non deve fare domande. Lei ce l'ha la notazione. Innanzitutto, dice, nella base logistica cominciamo. Ma di quale organizzazione sta parlando lei, dottore Marini? Di questa organizzazione di cui quale? Deve rispondere. Qui davanti a noi. Senta, Bonanno, il problema è questo. Indipendentemente dalla fondatezza o no dell'accusa, qui c'è un reato che parla di associazione sovversiva, associazione eversiva e di banda. Indipendentemente da questo, dalla fondatezza, perché io lo devo provare. Certo. Lei naturalmente si deve difendere questo. Quando lei, io sto usando lo stesso suo sistema, sto prendendo l'annotazione, intanto soltanto questo, l'annotazione dei carabinieri con riguardo alla sua persona, perché io ho fatto fare dai carabinieri, oltre che il rapporto informativo generale, anche una serie di cartelle individuali o individualizzanti in cui ci sono tutti i elementi raccolti nei confronti dei singoli imputati. E lei da quello è partito. E io mi vorrei attenere anch'io a questo. Allora, quando per esempio si dice che in Roma, via Fivizzano numero 15, che è la casa abitazione di Gizio Antonio e di Sassosi Ella, nella quale peraltro si dice da parte dei carabinieri è stata organizzata la rapina poi alla BNA, di cui ci ha parlato la pentita, organizzata anche da lei, io voglio sapere se lei in questa casa c'è mai stato oppure no. Non rispondo. A Milano, benissimo. Nella casa di bagno a Ripoli, di via Molino del Vernanese, abitazione di Moreale Stefano, non dove aveva sede la redazione del periodico Cane Nero, non c'è mai stato. Non rispondo. Non rispondo. Nell'abitazione di via De Predis, numero 7 a Milano, cioè dell'abitazione di Budini Antonio e Riccobono Giuseppini, da cui sarebbero state organizzate le rapine di Serravalle Dale, le rapine di Ravina di Trento e così via. Non rispondo. Non perché rispondo. Riguarda, per va il motivo va bene, di prima. No. Mi faccia fare il mio lavoro, Boranno. Lei l'ha fatto, io devo fare il mio lavoro. A Roveredo, a vicolo Santa Maria numero 5, che è l'abitazione di Passamani Massimo, attualmente in Francia, perché è latitante, dopo è ancora sta lì nonostante che la Corte di Parigi abbia dato l'assenso alla sua estradizione in Italia. Lei ha mai frequentato questa abitazione di Passamani Massimo? Non rispondo. Non rispondo. Vabbè, allora io mi esento da fare le altre domande sulle frequentazioni. Però una cosa le vorrei dire, Borato, perché noi dobbiamo anche confrontare e riscontrare rispettosamente, anzi non segue i principi della legge, le dichiarazioni di chi accusa. Le dichiarazioni? Scusi. Di chi accusa. Ma... Siccome è venuta qui una persona seduta lì al suo posto tempo fa e ha accusato lei e ha detto che lei stava dietro a tutte le rapine che venivano commesse, che esisteva, ripeto, una cassa comune con un fondo comune e che a questo fondo comune, a cassa comune, andava il 50% dei proventi della rapina. Siccome sono venute altre persone che si chiamano Sforza, padre e figli, e hanno detto che anche le rapine che commettevano Gregorio Agaragin, Scrocco Roseanne, De Blasi Luigi ed altri servivano per finanziare l'organizzazione e che molti di questi soldi venivano mandati a lei in Sicilia, e quindi abbiamo altre dichiarazioni di riscontro a quello. Lei ha mai saputo di queste cose? Lei ha mai ricevuto denaro, visto che poi è andata a commettere materialmente anche una rapina? No. Invece da parte di altri che avevano commesso queste rapine? No. No, no, no, no. Mai avuto. Se no non me ne andavo a fare una rapina per i fatti miei. Dalla rapina di Bergamo? Certo. Se come mio cerca di descrivere lei nella comoda posizione che qualcuno faceva rapina al posto mio e mi portava i soldi fino a Catania, c'era motivo che prendesse il treno fino a Bergamo e andava a rapina. No, le cose hanno una logica o non ce l'hanno, non è che possono avere una logica che ci conviene e non averla quando non ci conviene. Però lei in quel periodo, come giustamente sta ricordando, stava in carcere e questo signore che si chiama Sforza Antonio è venuto a dire di aver assistito a una riunione fra Scrocco, Rosa Anne e altri, De Blasia, in cui si parlava degli aiuti economici e finanziari che dovevano dare proprio a lei e a Stasi che stavano in carcere. Lei ha mai ricevuto vaglia postali, denaro da parte di questa Scrocco, Rosa Anne? No. Da parte di... No. Mai? No. Lei sapeva di... lei ha mai conosciuto questa Scrocco, Rosa Anne? No, mi rifiuto di rispondere. Lei ha mai conosciuto Gregorio Angaragi? No, mi rifiuto di rispondere. Roberto Paolo e gli altri? Lo stesso. Quindi è inutile che io le faccia le domande su tutte le persone. A suo piacere. Che sono imputate con lei nei reati associativi. Vabbè, Presidente, è il minimo che si può fare all'inizio di un fatto così. Io faccio la risposta è questa. Senta, lei dice c'è la indissolubilità fra il dire e il fare, fra il... Ma scusi, pensare. C'è la? La indissolubilità, dice, c'è non un bisogna male, soltanto detto. Teorizzare, ma bisogna anche praticare. Ho capito bene? Perfettamente. Ho sintetizzato brutalmente così. Non ho capito, scusi dottore, non ho capito la... La prima parola non ho capito. Non bisogna soltanto teorizzare o limitarsi a teorizzare, ma bisogna anche passare all'azione, cioè praticare. No? L'ho scritto tantissime volte. L'ha scritto tantissime volte. Siccome lei ha scritto anche che per praticare, però abbiamo trovato gli appunti e io uno già gliel'ho contestato, è bisogno anche di avere un armamento o di ammazzi. Lei sapeva, lei ha mai posseduto armi all'infuori di quella... di quella che, con la quale è andata a fare no. La rapina a Bergamo e che ha rotto... Come ho dichiarato al giudice che mi ha interrogato al momento della rapina a Bergamo, la prima che possedevo e ho anche dove l'ho comprata. Lei ha il processo, come penso che abbia, quindi leggerlo là. L'ho comprata? Sì, il processo. Qualsiasi... in una qualsiasi armata? No, è scritto nel processo. Lei c'ha il processo, può, no, la può leggere con estensione. Vabbè, c'è scritto nel processo. Io devo dire, l'ha comprata in una qualsiasi armata. Ma è una cosa che interessa la Corte oppure no? Certo che interessa la Corte. E se interessa la Corte, penso che quello che dico io non ha senso, scusa. Tale leggere il mio interrogatorio. Se lei mi permette, lei è accusato, fra l'altro, della detenzione di una serie di armi che erano ricoverate in questa cantina di via Cristoforo qui a Roma. Ci sono fucili mitragliatori, armi di qualsiasi tipo, armi tipo quella che lei ha utilizzato per la rapina di Bergamo. I carabinieri, come lei giustamente... Cosa ha detto? Scusi, c'è nella cantina l'arma che da me ha utilizzato nella rapina di Bergamo? Tipo come quella che lei ha utilizzato nella rapina di Bergamo e tipo. Così via. Quindi, siccome io ho trovato degli appunti in cui lei teorizza anche l'armamento di questa organizzazione cosiddetta informale, io voglio sapere se lei all'infuori di quella arma che ha utilizzato per andare a commettere la rapina a Bergamo ha mai posseduto altre armi. No, non ho mai, posseduto altre armi. Per quanto riguarda il dire e il fare, ha saputo poi se altre persone si sono armate in base alla sua teoria? No. No, nell'armamento no. Lei mi interessa saperlo. Lei non sapeva nulla di questo armamento di via? Assolutamente no. Non sapeva assolutamente no. E delle armi di cui sono serviti anche quelle persone che lei, di cui lei non vuol parlare, ma che comunque... che sono state imputate per quelle rapine su al nord, riserva Valle di Arida, viene dicendo a cui lei ha partecipato ai processi, no, lei sapeva da dove venivano quelle armi? No, signore. Senta, in una di quelle rapine, è stato sequestrato un'autovettura, un camper, che poi... lo diremo nella nostra requisitoria, poi è stato dissequestrato e restituito, e guarda caso è stato restituito a lei che poi lo ha passato a passamani Massimo. Perché è stato restituito a lei quel camper? Lei ha a che fare anche con quella rapina? No. E allora com'è che... Scusi, che c'entra? Perché mi restituiscono il camper perché dovrei avere a che fare con la rapina? Casomai al contrario. Siccome in quel camper sono state trovate tutte quelle cose di cui si parla poi in quella sentenza che è passata in giudicato e che noi abbiamo acquisito, cioè tutte le cose che servono per commettere una rapina, volevo sapere come era andato a finire in mano a questi rapinatori il suo camper. Il camper non era mio. E di chi era? Non mi rifiuto di rispondere. E allora perché lei ne ha chiesto il dissequestro se non era suo? Io ho chiesto il dissequestro. Sì, io ho un provvedimento di dissequestro che dice su istanza di Bonanno Maria Alfredo. Io ho chiesto il dissequestro di un camper che non era mio. Che non era? Mio. Suo? Non era mio. E gli è stato restituito? Sì, signore. Beh, ma restituito significa che prima aveva il possesso? A lei ha mai avuto il possesso di questo camion? Prima della restituzione? No. Allora il termine restituire è sbagliato. Non lo so se è sbagliato, è stato usato... consegnato. Ecco, appunto, è stato consegnato. E perché lei, che non è il proprietario, riceve il camper e prima fa la domanda per il dissequestro? Non ho capito. La spiegazione c'è, però occorrerebbe che io dicessi il nome di una persona. No, non faccio il nome della persona, la spiegazione la può fornire però. È perché era di mia moglie, no? Di sua moglie? C'è negli atti. E perché poi lo passa a passamani Massimo? Ma io non lo so se l'ho passato a passare, ma non mi ricordo. E lei ha saputo da sua moglie per quale motivo? Forse perché bisognava spostarlo, non so, c'erano del... non so. E ho saputo. Ma scusa, ma perché lei l'istanza di sequestro non la fa sua moglie? Ma non lo so, perché probabilmente era carcerata, non lo so. Un po' che ci dico. Senta, lei è mai stato lei sa che fra le altre cose viene accusato anche di questa rapina che sarebbe stata organizzata qui vicino Roma. Lei è mai stato qui nelle vicinanze di Roma a trovare per esempio a Roma, un imputato come Tesseri Carla? Scusi, non ho capito, sono stato a Roma tante volte. Sei stato a Roma tante volte? Ha conosciuto qualcuno anche a Lavigno? No. Ha conosciuto mai un calabrese, un pescivendolo calabrese? Lei, la prima cosa che ha detto appena si è seduto, non ho conosciuto mai Martino. Non intendo, non ho detto sto nome perché non pronuncio. No, l'ha detto il nome, ha detto... L'ha detto. Vabbè, se l'ho detto mi sono sbagliato. Comunque non intendo rispondere. Non intendo rispondere su questa cosa. Cioè, sui fatti specifici di cui lei viene accusato, lei non intende rispondere. Sì, ma che se non comprendono nomi di altre persone, o teorie, o fatti attinenti ad altre persone. Ok. Senta, quando io ritorno su questa domanda, perché è fondamentale, ne ha parlato anche questo il maggiore Dice in quest'aula, dopo che è stato questo momento in tavola, c'è stato un dibattito che, di cui ha detto questo ufficio di polizia giudiziario, all'interno di questo gruppo o di questi gruppi, lei, oppure usiamo la sua espressione, all'interno di questa organizzazione informale. No, non ho mai detto, scusi. Io non ho mai parlato, dottore, lei non si rende conto, mi scusi se mi permette, veramente, quando lei usa il termine questo, significa una precisa determinazione fatta. Quindi lei non mi può dire di questa organizzazione informale, perché così cerca, senza volerlo, di trarmi in inganno. Ma no. Forse non se ne accorge. Allora usiamo l'espressione delle persone che lei frequentava. No, usiamo pure se vogliamo parlare d'organizzazione, ma nel senso di una delle tante possibili organizzazioni informali, non di questa organizzazione che lei ha in mente, a cui lei e i carabinieri hanno dato un nome ben preciso e così via. Per carità, cerchiamo insomma di essere seri. Io voglio riprendere la domanda del Presidente. Ma lei predicava al vento, forse? Prego? Lei predicava al vento, forse? Lei non sa che in base a quelle sue teorie poi sono state messe in pratica, perché ci sono stati gruppi, e noi abbiamo la prova in questo, perché ci sono state anche sentenze. Mi faccia fare la domanda. Gruppi che innanzitutto ha praticato l'autofinanziamento attraverso la rapina, e a uno di questi gruppi ha partecipato proprio lei personalmente. Gruppi che hanno partecipato. Scusi, dottore, io ho partecipato a che cosa? Alla rapina di Bergamo. Ho fatto la domanda però prima. Sì, lei è stata chiamata a rispondere anche di una rapina, capo 20 dell'imputazione. Sì, nei confronti di un'agenzia, numero 13. Della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Roma il 29 marzo del 1994. Sì. Facciamole la domanda, ha commesso questa rapina? No, signora. Io non so nulla di questa rapina. Ecco, perciò, allora, però, se mi dite se conosco quelle persone, allora vi dico, non voglio rispondere. Lei l'ha mai conosciuta allora questa ragazza, la Moide Nabstechi? Sì, l'ho vista qualche volta. Ah, ecco, deve stare parlando. Allora, dove l'ha vista, come l'ha vista, in che occasione l'ha vista? Non voglio rispondere. Ma questa è la persona che l'accusa? Mi fa piacere, però non voglio rispondere. Lei è disposto a subire un confronto con questa persona? Sì. Se io le porto davanti, chiedo alla Corte di fare un confronto fra lei, visto che ormai è stato introdotto nella nostra Costituzione addirittura questo tipo di confronto con la riforma del giusto processo, se io le porto chi l'accusa, lei è disposto a confrontarsi con lei? Io sarei disposto, solo che forse non ho lo stomaco sufficiente per affrontare. Stomaco al paese mio vuol dire la capacità di resistenza. Una ragazza di 20 anni. Lei è un personaggio navigato, non credo che lei non lei parla. Io sono un personaggio radicato, però sa, davanti a certe sconcezze anch'io mi sento in difficoltà. E quali sarebbero le sconcezze? Quelle che presumo potrei sentire qui dentro poi. No, quindi meglio evitare. Cioè, lo vuole o non lo vuole? No, non voglio. Non lo vuole. Quindi si rifiuta di mettersi anche a confronto. Ma poi rientra anche nel discorso che abbiamo detto prima. Cioè? Quello di parlare di altre persone. Cioè, lei si vuole confrontare con le persone con l'accusa o con gli elementi, o quantomeno con gli elementi di accusa? O lei ritiene che dobbiamo parlare soltanto di rivoluzione? No? Qui non stiamo parlando soltanto di insurrezione o di rivoluzione, noi stiamo parlando di rapine, stiamo parlando di omicidi, stiamo parlando di stragi, stiamo parlando di sequestri di persone. Queste sono le imputazioni di questo processo. Non stiamo parlando di un'organizzazione che aveva soltanto come progetto l'insurrezione armata contro lo Stato o l'insurrezione di massa. Quindi lei si vuole confrontare con gli elementi di accusa che sono stati raccolti nei suoi confronti in base a queste specifiche imputazioni? Sì. E si vuole soprattutto confrontare con una delle persone che l'accusa? No, con una persona, con questa persona non mi voglio confrontare. E allora io non ho altre domande da fare. Magnifico. Signore Perché avvocato, ho esaurito il mio compito. Parte civile, vuole fare domande? Signor Bonanno, quindi lei nega di aver dato vita o di aver partecipato ad un'organizzazione avente le caratteristiche teoriche, diciamo, che lei ha descritto come organizzazione informale? Scusi, la domanda sì, la potrebbe essere da me risolta a dire lo nego e basta, però guardi, sì, mi consenta che in quello che lei ha detto c'è una contraddizione. Lei ha detto io nego di aver dato vita ad un'organizzazione come quella che ho descritto, ma un'organizzazione come quella che ho descritto nemmeno Domine Dio ci può dare vita, perché è data da un insieme di coordinazione, di volontà collettive che creano qualcosa che non può essere data da un individuo solo. Quindi c'è una contraddizione che sostanzialmente nega quello che sta dicendo lei. Sì, ma nella sostanza, è una buona sostanza, professore. E si avvicina i sofismi. Lei fa parte di un'associazione? No, signore. Allora continui. Ma scusi, signor Presidente, mi consenta nella sua domanda. In un certo senso c'è una contraddizione, con tutto il rispetto, perché se lei mi chiede io faccio parte di un'organizzazione, non ci siamo capiti sul concetto di associazione. Non ci siamo capiti sul concetto di associazione di cui parliamo, l'associazione che nasce davanti a un professore, io ragiono in termini giuridici, quindi riprendendo la domanda della parte civile, le formulo questa domanda: fa parte di un'associazione? No. Continui, parte civile. L'applicazione delle sue teorie, delle sue idee, diciamo, ecco, non parliamo di ideologie perché lei appunto aveva detto che non si riconosce in questo concetto, comporta anche l'uso della violenza contro singoli individui, contro singole persone che secondo lei rappresentano le istituzioni che